il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Turismo e bicicletta, un binomio che ha sempre più successo. Tuttavia, non sempre i servizi che si trovano sul territorio, in particolar modo in Italia, che sta arrivando un po' a ruota di altri paesi europei in questo settore, non sono all'altezza della situazione o delle richieste dei turisti della bicicletta. C'è però qualcosa che si muove, un esempio lo abbiamo qui nel Veneto. Agriturist Veneto, l'associazione di Confagricoltura Veneto che si occupa di agriturismi, ha lanciato un'iniziativa che si chiama AgriCycle Veneto, che riunisce proprio gli agriturismi che sono interessati, che offrono qualcosa di più proprio agli appassionati delle due ruote. Abbiamo oggi con noi Giulia Lovati, presidente di Agriturist Vicenza e anche attiva in questo progetto AgriCycle Veneto. Benvenuta Giulia. Buongiorno, grazie. Ecco, volevo intanto chiederle di farci capire un po' di più qual è il panorama, di che cosa stiamo esattamente parlando. Voi vi occupate di agriturismi, c'è richiesta, allora, ci sono persone che girano per il Veneto in bicicletta e cercano luoghi dove andare a dormire, dove mangiare o fare anche semplicemente una sosta. Certo, allora guardi, noi ci siamo resi conto che guardando i dati alla mano ormai il 12% del PIL nazionale è dato dal turismo in bicicletta e questo si può anche vedere e constatare tutti i giorni, almeno noi davanti alla nostra azienda vediamo i turisti che passano proprio in bicicletta. E ci siamo detti perché non provare questa nuova sfida, visto che la figura del cicloturista è legato sicuramente alla vita all'aria aperta, alla natura, al mangiar sano e tra le altre cose possiamo riempire le nostre strutture anche nei fuori stagione. Quindi stiamo cercando di creare dei pacchetti cicloturistici essenzialmente dove il turista si ferma a dormire una o due notti o anche di più. Chi non offre il dormire ma offre il mangiare è tutto un po', ci stiamo collegando e riunendo proprio come una rete di agriturismi. Siamo in 25 sparsi nel territorio del Veneto e ci stiamo organizzando in questa maniera. Quali sono le richieste che vi vengono fatte principalmente da questi turisti in bicicletta? Ma le richieste in particolar modo sono richieste dove andare, noi gli forniamo dei servizi principali, quindi avere dei locali coperti e riparati, delle attrezzature per le piccole riparazioni, le officine meccaniche qualora servano e poi anche delle mappe aziendali proprio, cioè in azienda delle mappe dove girare dei roadbook, proprio partiamo dalla conoscenza del territorio, pedaliamo noi in primi e tracciamo dei percorsi e gli creiamo delle esperienze da vivere all'interno del nostro territorio. Ecco, questo vedo che piace molto alle famiglie soprattutto. Ecco, stiamo parlando di turisti che vengono in agriturismo, quindi fanno la vacanza classica in agriturismo e però prendono delle biciclette perché gli piace poi girare visitare in bicicletta oppure sono turisti di passaggio che quindi cercano dei punti tappa principalmente e poi magari si fermano un paio di giorni. Ma guardi, io ho visto che no, mi prenotano già con l'idea di venire e fare magari un paio di giornate in bicicletta, ovviamente se più legati al tempo e alle condizioni meteorologiche, però piace molto questo discorso, soprattutto ai bambini, di unire l'enogastronomia o la cultura e poi anche la bicicletta, quindi raggiungono i vari posti pedalando. Ecco, devono essere anche posti raggiungibili questi agriturismi, cioè non è, altrimenti... Sì, ovviamente sfruttiamo tutte le ciclabili esistenti o le stradine di campagna, ecco. Va bene, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. I see the I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di turismo in bicicletta, lo stiamo facendo con Giulia Lovati di AgriTourist Vicenza e del progetto AgriCycle Veneto, promosso appunto da Confagricoltura Veneto. Stavamo parlando di turismo in bicicletta nella nostra regione, di agriturismi che si stanno attrezzando per accogliere questi turisti. Cosa deve fare in particolar modo qualcuno? C'è qualche caratteristica particolare che un agriturismo deve avere? Non so, una tettoia per le biciclette o che ne so. Deve avere dei locali coperti per mantenere le biciclette, perché se il turista viene con una bicicletta magari molto costosa richiede sicuramente di tenerla in un locale chiuso, oppure per chi viene senza troppi bagagli o addirittura se arrivano in bicicletta noi li andiamo a prendere alla più vicina stazione ferroviaria per prendere i bagagli e per prendere l'ospite. Quindi bisogna avere anche a disposizione delle autovetture o comunque organizzarsi in tal senso, e poi magari avere l'uso lavanderia in modo che ci sia la possibilità di lavare e asciugare gli indumenti sportivi in maniera celere, e magari attrezzarsi per una prima colazione da sportivi, ecco, quindi insomma che permetta di percorrere in bicicletta tutto il giorno il territorio. Assolutamente sì, cioè è proprio mirato alle attenzioni del turista e alle richieste, cercare di offrire una flessibilità insomma alle richieste del cicloturista. Ecco, sono solo italiani o ci sono anche stranieri? E sono gruppi o singoli? Allora, per i gruppi ci stiamo più organizzando, noi siamo strutture piccoline, quindi a parte qualche associato che può avere anche un 30 posti letto, io per esempio personalmente ne ho soltanto 8 e in questo caso mi devo collegare a qualche collega sempre di Vicenza, ma della disponibile insomma ad avere ospiti. Questo per i gruppi, invece per delle famiglie o 2-3 famiglie no, siamo più che disponibili tutti. Ecco, dicevamo anche stranieri. Certo, in principal modo sono stranieri durante magari periodi estivi, mentre le feste italiane tipo il 25 aprile, 1 maggio, Pasqua, ho visto che ha ripreso bene il turismo italiano e anche il turista italiano comunque ama molto la bicicletta, la soluzione in bicicletta. Ecco, parlavamo prima anche di questioni un po' tecniche, chi viene in questi luoghi ha bisogno magari anche di fare manutenzione alla bicicletta, voi vi state attrezzando anche per offrire questo, una piccola manutenzione? Sì. Oppure sapere almeno dove sono nella zona i meccanici specializzati? Sì, avere magari le prime attrezzature, averle in azienda, quindi magari camere ad aria o cose, la possibilità anche di lavare la bicicletta, quindi... Già in azienda ci deve essere la prima parte di, poi per chi è più specifico come esigenze, no? Allora ci si appoggia e dobbiamo avere in azienda il nominativo di una ciclofficina vicina. Ecco, dove si può avere informazioni rispetto a questa ospitalità e quindi alle iniziative che promuovete? Allora, guardi, potete seguirci in Facebook e nei social network guardando Cycle Veneto. Mentre se invece siete interessati a vedere tutti i percorsi a Margherita che abbiamo fino ad oggi già mappato, potete guardare nel nostro sito che è www.agricycleveneto.net. E poi ne approfitto per dirvi che il 2 giugno faremo un EduTour e inviteremo tanti amanti della bicicletta, vedere come ci muoviamo, cosa facciamo, le esperienze, le emozioni che vogliamo trasmettere nel nostro territorio e per chi vuole prenotarsi il numero di telefono della nostra coordinatrice di Padova è 049 82 23 517. Questo il 2 di giugno? Questo il 2 di giugno, sì, faremo proprio noi agriturismi, saremo tutti presenti, poi invitiamo giornalisti, tour operator, famiglie intere che vogliono venire a pedalare con noi e a conoscerci. E dove si terrà questo tour? Lo stiamo ancora organizzando, penso nel Padovano comunque, intorno ai Monti Ogani. Allora su Facebook o sul sito internet che abbiamo citato prima? Su Facebook, sì, su Facebook sarete sicuramente aggiornati, sicuramente. Bene, grazie. Grazie a lei, buona giornata. E adesso diamo due brevi notizie per concludere. Destinare le aree verdi dei penitenziari del Veneto ad attività agricole, trasformare e commercializzare i prodotti, formare i detenuti per inserirli nelle aziende regionali. Sono questi i punti principali del protocollo d'intesa firmato a Mestre nella sede di Confagricoltura Veneto dal presidente regionale dell'Associazione Agricola e dal provveditore dell'amministrazione penitenziaria del Triveneto. L'accordo è di durata biennale ed è finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale con il coinvolgimento in attività imprenditoriali legate all'agricoltura. E queste persone passeranno attraverso i corsi di formazione proposti da Confagricoltura Veneto e il supporto di imprese cooperative del settore che potranno dare lavoro al personale formato. L'Istituto di Biometeorologia del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l'Accademia dei Gergofili e con il contributo della Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana, bandisce un concorso dedicato alla memoria di Laura Bacci per un premio di studio destinato a una tesi di laurea magistrale discussa nel periodo gennaio-dicembre 2015 in una delle seguenti tematiche: ortoflorovivaismo, piante tintorie e da fibra. Il bando scade il 30 luglio 2016 ed è consultabile nel sito internet www.fi.ibimet.cnr.it. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato? Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con Arcav,